Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cresce il numero di contratti di lavoro in marzo, le assunzioni superano le cessazioni di 90.000 unità, bene il tempo indeterminato nel primo mese dopo il via libera al Jobs Act. Oggi vertice europeo sull'immigrazione, Renzi riunisce i ministri prima di partire per Bruxelles, a Malta i primi funerali delle vittime del naufragio. A margine del summit si incontreranno il premier greco e la cancelliera tedesca, Tsipras cerca un accordo, ipotizzabili aiuti in tranche per Atene, dice il vicepresidente della commissione Dijsselbloem. Azioni ferme per 1.800 studenti a Sanremo dopo la chiusura per rischio crolli di 6 scuole, rinviata la presentazione dell'anagrafe sull'edilizia scolastica, mancano 6 regioni. Juve in semifinale di Champions, stasera Napoli e Fiorentina in campo per l'Europa League. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la pagina della trasmissione sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e durante la diretta il numero di SMS, il 349-238-6666. In apertura i dati del Ministero del Lavoro sui nuovi contratti, sui quali ci aggiorna la nostra Anna Marino. Anna, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, a marzo i nuovi contratti di lavoro nel complesso, fatta eccezione per il lavoro domestico e quello della pubblica amministrazione, lo sottolineiamo, sono stati 641.572 a fronte dei 549.273 che riguardano le cessazioni. Il saldo attivo, appunto, come dicevi tu, è di oltre 92.000 unità, tutti realizzati sotto la riforma del Job Act, e sono i primi dati delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro, i primi dopo che il 6 marzo è entrato in vigore appunto il Job Act e il nuovo contratto, con il nuovo contratto a tutele crescenti. I contratti a tempo indeterminato attivati sono stati 162.498, quasi 54.000 in più su marzo 2014, a fronte di 131.128 contratti appunto cessati. I rapporti di lavoro a tempo indeterminato, quindi, per cui è prevista la decontribuzione triennale, hanno avuto un saldo attivo di oltre 31.000 unità. Di questi va precisato, non sappiamo quanti sono nuovi contratti o solo trasformazioni. In particolare, beneficiari dell'incremento della stabilizzazione del lavoro sono in prevalenza gli uomini, con circa 33.000 contratti a tempo indeterminato in più, ma è significativo anche il dato delle donne con 20.000 contratti in più. E per quanto riguarda invece il numero delle cessazioni dei rapporti di lavoro, è in calo rispetto al 2014, e qui sono le donne ad avvantaggiarsi della riforma. Ma per ora è tutto. E grazie Anna Marino per questo aggiornamento. Abbiamo i dati di questa mattina anche sulla crescita del commercio estero con i paesi extraeuropei. L'export sale del 2,2% rispetto a febbraio e del 13,2% rispetto a marzo 2014. Lo comunica l'Istat stesso, che registra che per le importazioni un aumento del 4,8% su mese e del 9% su anno. E siamo al DEF, il documento di economia e finanza, che arriva in aula. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il voto secondo il calendario è previsto intorno alle 16, quindi dopo il via libera da parte del Parlamento il documento di economia e finanza verrà inviato alle istituzioni europee entro il 30 di aprile. Al centro dell'attenzione resta intanto il cosiddetto tesoretto per coprire l'uso del bonus da 1,6 miliardi frutto nei differenziali. Saranno allora congelate risorse già stanziate in bilancio in attesa che tale margine sia confermato in autunno con l'assestamento. Tutto ciò è messo nero su bianco da parte del Governo nella risoluzione di maggioranza, che prevede prudenzialmente l'accantonamento di queste risorse. Nel testo che Camera e Senato voteranno nel pomeriggio non viene specificato in quale direzione debba essere impiegato il tesoretto, ed ancora bene la spending review per neutralizzare le clausole di salvaguardia, ma questa deve essere selettiva senza intaccare protezioni sociali e servizi. La revisione delle agevolazioni fiscali deve infatti riguardare esclusivamente quelle non giustificate da esigenze sociali o economiche o che sono duplicazioni, senza toccare la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo e da pensione. Critiche infine da parte delle opposizioni: il tesoretto non c'è, dice Vendola, l'accantonamento di risorse per usare il tesoretto è l'ennesimo imbroglio di Renzi, spiega Brunetta da Forza Italia. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Torneremo sull'economia tra poco per parlare della situazione della Grecia. Oggi ci sarà un incontro tra Alexis Tsipras, il premier greco, e la cancelliera tedesca Angela Merkel per parlare proprio della situazione di Atene. Avverrà a margine di un Consiglio europeo convocato, come sapete, per parlare di immigrazione. Partiamo dunque da qua e lo facciamo con Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Oggi è dunque il giorno in cui l'Europa deve dare risposte concrete per fronteggiare l'emergenza profughi. Dalla riunione straordinaria del Consiglio d'Europa l'Italia si aspetta un deciso cambio di rotta per evitare altre morti in mare. Il punto di partenza sono quei 10 punti che la Commissione europea aveva già presentato lunedì al Consiglio congiunto dei ministri degli esteri e dell'interno, ma è su 2 in particolare che si concentrano le attese. Il primo è il rafforzamento in termini finanziari e di risorse di Triton, con possibilmente anche un'estensione del raggio d'azione che dovrebbe significare un potenziamento delle capacità di ricerca e salvataggio in mare, anche se non si dovrebbe arrivare a cambiare la sostanza di questa missione. Il secondo punto riguarda quell'operazione di sequestro e distruzione dei natanti prima che siano usati dai trafficanti in Libia attraverso un'azione mista militare e civile, probabilmente con mandato ONU. Accanto a questa anche l'ipotesi di un'operazione di polizia per il controllo dei porti libici. La Libia però intanto ha fatto sapere che non accetterà operazioni militari sul suo territorio, ma il ministro degli esteri Gentiloni alla BBC ha precisato: non ci sarà nessuna invasione militare, solo interventi mirati contro gli scafisti. Gentiloni, che questa mattina era a Palazzo Chigi per il vertice con Matteo Renzi insieme al ministro della difesa Pinotti per fare il punto su tutte queste questioni in vista appunto dell'incontro di Bruxelles. E da Zagabria invece interviene nuovamente il presidente della Repubblica: i trafficanti di esseri umani vanno contrastati con tutta la forza e il vigore possibile, dice Mattarella, secondo il quale è inaccettabile che il Mediterraneo diventi un grande cimitero. A te, Simone. Grazie ad Alessandra Schepisi. Questa mattina intanto nuovi arrivi in Sicilia e i funerali a Malta per le 24 vittime finora ritrovate del naufragio del fine settimana. Nel porto di Catania è arrivato il pattugliatore Denaro della Guardia di Finanza. A bordo c'erano 220 persone soccorse a 40 miglia a nord della Libia su 2 gommoni. A Malta intanto il vescovo e l'imam celebravano assieme i funerali delle 24 vittime accertate del naufragio avvenuto il 19 aprile, in cui sarebbero morte centinaia di persone. Indipendentemente dal nostro credo, nazionalità, razza, questi morti sono prima di ogni cosa esseri umani in fuga da una situazione disperata alla ricerca della libertà e di una vita migliore, hanno ribadito i 2 religiosi. Esseri umani, trattati in modo inumano dagli scafisti, ha raccontato invece il procuratore Giovanni Salvi ieri dopo l'interrogatorio dei sopravvissuti. Sul fronte della diplomazia sono ore di lavori frenetici a più livelli. C'è la posizione di Tripoli che rifiuta, per voce del ministro per gli affari esteri, possibili bombardamenti di presunte basi di trafficanti, ipotesi ventilata in seno europeo. Poi c'è la notizia che domani l'inviato speciale dell'ONU per la Libia, Bernardino Leon, sarà al Cairo per incontrare parlamentari libici e discutere con loro sulla bozza di un documento d'intesa tra Tobruk e Tripoli. Questo è un tema molto importante. Leon ha già annunciato che c'è intesa su circa l'80% delle questioni da risolvere per creare un governo di unità nazionale libico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come sapete stiamo raccogliendo varie opinioni in queste ore sulle ipotesi che si stanno ventilando per le soluzioni scelte dal Consiglio europeo di questo pomeriggio. Valentina Furlanetto ha sentito il direttore del centro Astalli che si occupa di migrazione e che ha un giudizio piuttosto negativo sull'ipotesi di bombardare i barconi, come si è detto. Il direttore si chiama Bernardino Guarino, sentiamo l'intervista. Se noi anche arrestassimo tutti gli scafisti rimarrebbe sempre per la grande questione: come fanno queste persone che scappano da guerra e persecuzione ad arrivare legalmente in Europa? Su questa, che è la questione delle questioni che l'Europa mai affronta, non c'è neanche una parola. E poi sinceramente non ci piace neanche il linguaggio: parliamo di una grande operazione umanitaria, sentiamo parlare solo di affondare, abbattere, combattere. Non è una guerra, facciamo passare anche un discorso culturale che ci dobbiamo difendere dai rifugiati. In realtà noi dobbiamo difendere i rifugiati. Il premier Renzi sul New York Times ha scritto in un editoriale che sui gommoni non ci sono solo famiglie innocenti. Questa ci è sembrata un'affermazione molto semplicistica e anche molto pericolosa. Tutte le persone che arrivano vengono giudicate da una commissione dello Stato che quindi in qualche modo prende tutte le precauzioni prima di rilasciare un permesso di protezione internazionale. Quindi ci possono essere degli episodi, ma il 99,9% delle persone che arrivano sulla barca sono persone che fuggono da guerre e conflitti. C'è anche una considerazione molto semplice: il grande terrorista internazionale certamente non arriva su una barchetta facendo un viaggio pericoloso, ma ha altri strumenti, altri modi per arrivare. Come avete sentito, le due questioni centrali, almeno per quanto riguarda l'Italia, le questioni interne, sono quelle dei controlli da una parte e dell'accoglienza all'altra. Su questi temi torneremo tra poco, sentiremo il sottosegretario agli interni Domenico Manzione, e poi sempre la nostra Valentina Furlanetto è andata oggi alla stazione centrale di Milano, dove ci sono dei profughi siriani in attesa di partire per la Germania, e dunque sentiremo che cosa le hanno raccontato. Come si diceva, a margine del Consiglio europeo di oggi si incontreranno il premier greco Alexis Tsipras e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Nel frattempo parla il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, dice che è ipotizzabile che gli aiuti internazionali siano versati alla Grecia in tranche a fronte della parziale attuazione delle riforme da parte di Atene. Lo snodo dunque è sempre quello: quali sono le prospettive? Lo chiediamo a Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, effettivamente le prospettive sono ancora una volta soldi, quindi aiuti in cambio di riforme. Questa famosa lista di riforme strutturali che il governo greco, il governo Tsipras, fa fatica a presentare perché ha una resistenza interna della sinistra radicale di Siriza che non vuole naturalmente approvarlo perché ritiene contrario alle promesse elettorali. Quindi ci sarebbe un problema interno, nel senso che la legge di riforma non verrebbe approvata nelle aule del Parlamento greco. Questo deve essere fatto tutto entro giugno, perché come ricordiamo il 4 mesi di proroga ponte scadono appunto a fine giugno. Una lotta contro il tempo. È possibile che con questo secondo incontro tra Alexis Tsipras e il cancelliere tedesco Angela Merkel venga trovato un compromesso. Si tratta di ridurre le richieste di entrambi i fronti e trovare quindi una soluzione che sia un compromesso accettabile. Vedremo che cosa emergerà dunque da questo incontro. Io intanto ti ringrazio, ringrazio Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Rimaniamo a parlare di questioni economiche, ma per parlare in realtà di un festival, il Festival dell'Economia. Si svolgerà a fine mese, non questo mese, a fine maggio, e oggi è stato presentato. Era là Francesco De Remigis. Francesco, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Si è appena conclusa la presentazione con i primi nomi che ci saranno al Festival dell'Economia di Trento dal 29 maggio al 2 giugno, lo ricordiamo. Il presidente, diciamo, dell'INPS è anche il responsabile di tutta la gestione del festival, Tito Boeri, ha raccontato un pochino quelle che saranno le tematiche. Il tema centrale sarà la mobilità sociale, qualcosa che interessa le persone che iniziano a lavorare oggi, quindi giovani in particolare, ma non solo. Boeri è tornato anche a proporre l'istituzione di un reddito minimo agli over 55. Sul Jobs Act invece ha preso tempo, perché dice se ne parlerà al festival con dei numeri e dei dati più corposi. Oggi non è ancora possibile attuare un'analisi approfondita. Festival dell'Economia di Trento, ci saranno molti nomi, tra cui anche il premier Renzi e il ministro dell'Economia Padoan, ma anche premi Nobel come Stiglitz e Paul Krugman, anche altri interventi istituzionali previsti a fine mese. E quattro parole chiave, le parole chiave saranno merito, opportunità, eredità e genere. È tutto da Roma. Grazie a Francesco De Remigis, dunque dal 29 maggio al 2 giugno. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, facciamo un punto calcistico con il nostro Dario Ricci per parlare tanto della Juventus di ieri, che con fatica approda alla semifinale di Champions League, quanto dell'Europa League di questa sera, e magari con qualche riferimento al Milan, che pare che siamo alla stretta finale per la vendita. Dario, buongiorno. Sì, mi viene da sorridere Simone, perché tu giustamente disegni il fine settimana del Festival dell'Economia. Io sul calendario c'ho scritto il sabato successivo, 6 giugno a Berlino, finale di Champions. Quello è il sogno della Juventus, che a fatica, anche viste le condizioni fisiche precarie di molti dei suoi protagonisti, ha strappato ieri questo 0-0 a Monaco e ha conquistato dopo 12 anni di nuovo le semifinali di Champions. Beh, adesso direi che per i bianconeri tutto quello che viene in più è tutto di guadagnato, inizia un po' la festa, nel senso che in semifinale potrebbe arrivare o il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che quella coppa ce l'ha in bacheca avendola vinta l'anno scorso, sempre nel derby di Madrid, o il Bayern Monaco di Pep Guardiola, che ha incenerito il Porto, oppure il Barcellona stellare, che ha 3 tipetti davanti che si chiamano Neymar, Suarez e Messi. Insomma, l'accoppiamento sarà comunque difficile e la festa garantita, perché tutto quello che verrà in più sarà di guadagnato. Le semifinali cercano anche questa sera in Europa League il Napoli. Di fatto ci vorrebbe un tracollo clamoroso al San Paolo contro il Wolfsburg dopo il 4-1 dell'andata in Germania, quindi è quasi fatta, ma attenzione a quel quasi, mi raccomando, per i partenopei. E la Fiorentina che riparte dall'1-1 di Kiev dell'andata contro la Dinamo, anche lì è sulla buona strada, ma sicuramente le insidie sono maggiori. Dario, ti voglio adesso su una parte, diciamo, più economica, per così dire, calcistico-economica, perché insomma, la proprietà del Milan ha fatto sapere che è una fase molto delicata. In genere è quello che precede, sono frasi che precedono ad un accordo per la vendita. Quindi, anche lì abbiamo una data, anzi due, perché domenica arriverà qui a Milano Mr. B Tecubol. Adesso la pronuncia ancora non è perfetta, ma dovremmo impararla, quindi ci sto lavorando. Il thailandese è pronto a rilevare, salvo colpi di scena targati Cina, la proprietà del Milan. Il 75% della proprietà garantita, mantenendo per 5 anni i ruoli attuali a Barbara Berlusconi e ad Adriano Galliani e la presidenza onoraria a Silvio Berlusconi. L'altra data è il 5 giugno, perché sempre a Berlino, alla vigilia della finale di Champions, Berlusconi riceverà dal presidente dell'UEFA Michel Platini un riconoscimento ufficiale per essere il presidente che di fatto alla guida del club che dopo il Real Madrid ha vinto più Coppe dei Campioni Champions League. Potrebbe essere quello il palcoscenico più adatto per la grande uscita di scena di Berlusconi dall'universo. Quindi Milano, il trionfo e poi la fine. Allora, grazie al nostro Dario Ricci per questo aggiornamento. Traffico, poi ci ritroviamo e torniamo a parlare di immigrazione. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Crescono i nuovi contratti di lavoro in marzo, le assunzioni superano le cessazioni di 90.000 unità, ebbene il tempo indeterminato nel primo mese dopo il via libera al Jobs Act. Oggi il vertice europeo sull'immigrazione, Renzi riunisce i ministri prima di partire per Bruxelles, a Malta i funerali delle vittime del naufragio, di quelle ritrovate. A margine del summit si incontreranno il premier greco e la cancelliera tedesca. Tsipras cerca un accordo. Lezioni ferme per 1.800 studenti a Sanremo dopo la chiusura per rischio crolli di 6 scuole. Ne parleremo più avanti col sindaco di Sanremo e col capo della struttura di missione della Presidenza del Consiglio per l'edilizia scolastica. Intanto torniamo sull'immigrazione. Saluto Domenico Manzione, che è sottosegretario agli interni con delega proprio a questo tema. Sottosegretario, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, vorrei partire dal tema dell'accoglienza, posto che una risposta a uno degli ascoltatori che ci ha scritto prima, che ci dice basta buonisti e buonismi, chiudere le frontiere, vergognatevi, gli dobbiamo rispondere. Ci deve prima spiegare tecnicamente come vuole chiudere le frontiere di una penisola di queste dimensioni come l'Italia. Comunque, questo è un altro argomento e sicuramente ci si potrà tornare. Sottosegretario, il tema dell'accoglienza. Fassino ha detto in un'intervista oggi: siamo pronti a trovare 40.000 posti, che sono comunque tantissimi. L'impressione è che però i sindaci stiano soffrendo moltissimo. Ieri abbiamo avuto ospite il sindaco di Reggio Calabria. Tra poco faremo sentire agli ascoltatori anche quello che abbiamo trovato alla stazione centrale di Milano, dove si vuole allestire una tendopoli fuori dall'ex CIE di via Corelli per cercare di risolvere l'emergenza. Detto ciò, la situazione è complessa e l'estate si avvicina e quindi gli sbarchi non si fermeranno di certo. Come si gestisce la cosa? No, Dunque, lei ha perfettamente ragione, nel senso che la stagione buona arriva e quindi con essa probabilmente gli sbarchi si intensificheranno. È per questo che ieri abbiamo fatto un tavolo dove abbiamo tavolo nazionale di coordinamento, dove abbiamo sostanzialmente ribadito tutti gli accordi che già dal luglio del 2014 governano tutto il fenomeno dell'accoglienza. C'è un impegno da parte di tutti, e quindi prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del presidente Fassino, a incrementare significativamente i posti SPRAR, vale a dire quelli che riguardano il terzo livello di accoglienza, che come lei sa fino a oggi sono circa 20.000, quindi pensiamo di arrivare a cifre più elevate. Tutto questo pensiamo di farlo ovviamente tenendo conto non solo delle presenze che sono già sul territorio, ma anche delle sofferenze dei singoli territori che, come lei sa, sono assolutamente disomogenee le une dagli altri. Quindi una sorta, mi scusi sottosegretario, una sorta di distribuzione più equa delle persone che arrivano tra i vari territori. Esattamente. Il punto è esattamente questo. In base all'accordo noi infatti abbiamo preso come, diciamo così, come dato fondamentale quello della distribuzione del fondo sociale. In ragione di essa, in ragione di quella percentuale, i nuovi arrivi andranno distribuiti su tutto il territorio nazionale in maniera il più omogenea possibile. Ovviamente le dico anche che avendo noi ereditato una situazione piuttosto pesante prima che venisse approvato per la prima volta in maniera strutturale il piano nazionale, e facciamo più fatica adesso a creare vasi comunicanti perché ci sono delle regioni che sono indecise esubero rispetto a altre che invece ne hanno meno di quelle che dovrebbero. Avete un punto su quali sono le regioni in maggiore difficoltà, sottosegretario? Cioè quelle che secondo voi non ne possono accogliere di più? Guardi, le regioni in maggiore difficoltà sono evidentemente quelle del sud, perché le regioni del sud sono quelle che fanno un vero e proprio front line e fino a non moltissimo tempo fa avevano un numero di presenze assolutamente esorbitante rispetto a quello che toccherebbe loro. Già ancora oggi, nonostante noi lentamente stiamo cercando appunto di fare una più equa distribuzione su tutto il territorio nazionale, ancora oggi, le dicevo, per esempio la Sicilia ha circa il 12% in più delle presenze che dovrebbe avere. Senta, ci sono alcune regioni che hanno detto noi non ne possiamo accogliere di più, e penso soprattutto ovviamente a quelle a guida leghista, perché è anche una questione politica. Evidentemente la Lombardia, abbiamo avuto ospite a 24 mattino il presidente Maroni l'altro giorno, anche Zaia è stato molto chiaro da questo punto di vista. In che condizioni sono in realtà queste regioni e potete, aperte virgolette, costringerle ad accogliere altri immigrati? Ma no, guardi, io spero che tutto questo sia ovviamente questa polemica che c'è in questi giorni, spero vivamente che sia, anzi sono convinto che sia frutto un po' delle tensioni inevitabilmente legate alla importante tornata elettorale che dovremo affrontare di qui a qualche giorno. Per il resto il patto è stato sottoscritto da tutti, Stato, Regione, Province e Comuni, quindi, e siccome il piano riguarda le persone già sbarcate, questo anche per rispondere alle sollecitazioni del suo interlocutore, dell'interlocutore che le ha mandato l'SMS o la mail, non ho capito bene. SMS. Il problema è che il piano riguarda le persone che sono già sul territorio nazionale, quindi rispetto a questo nessun altro metodo può essere altrettanto efficace come una distribuzione equa e capillare, evidentemente diffusa sul territorio, eventualmente con meccanismi di compensazione che mettano le popolazioni locali in condizioni di accettare di miglior grado, diciamo così, la presenza dei migranti. Senta, sottosegretario, c'è un altro ascoltatore che ci scrive, il secondo messaggio che ci scrive su questo, dice guardate che dalle stime che vengono fatte 8 su 10 sono immigrati economici, in realtà non sono profughi. Voi avete stime di questo tipo? Avete un'idea di quanti siano profughi di guerra e quanti appunto immigrati economici? No, i dati non sono esattamente quelli che riferisce il nostro ascoltatore. Lei pensi che attualmente siamo a 25.000, la stragrande maggioranza sono o somali o eritrei o siriani. Quindi queste sono le nazionalità principali che per evidenti ragioni che non sto a spiegare sono persone che richiedono il diritto d'asilo o la protezione internazionale. E normalmente le nostre commissioni accolgono queste richieste in percentuali variabili tra il 50 e il 60%, quindi c'è una netta prevalenza di asilanti rispetto a migranti di carattere economico in questo momento storico. Quindi sono 25.000 le presenze al momento sul nostro territorio? Quelli sbarcati dall'inizio dell'anno a oggi sono 25.000 esattamente. La ringrazio, grazie al sottosegretario all'interno Domenico Mansione, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. La nostra Valentina Furlanetto è andata questa mattina alla stazione centrale di Milano, dove ci sono anche dei siriani. Che cosa hai trovato, Valentina? Buongiorno. Sì, buongiorno. In effetti continuano ad esserci presidi di profughi alla stazione centrale di Milano, dove siamo stati questa mattina. Oggi ce n'erano una ventina accampati nel mezzanino fra un piano e l'altro, per lo più siriani in attesa di prendere dei treni per la Germania. Uomini, qualche donna e anche un bambino molto piccolo. Abu Safwan Masri è un signore siriano che arriva da Homs. Homs. I come from Sicilia. To go to Germany. Vengo da Homs, dice, in Siria, sono arrivato dalla Sicilia, voglio andare in Germania, ma il governo italiano mi ha preso le impronte digitali e questo rende tutto più difficile, dice Abu. Ora sono in questa situazione paradossale, non so più cosa sarà di me. Ho dormito qui sul marmo, sono scappato dalla Siria perché lì ci uccidevano tutti. Assad kill everybody in Syria. Abbiamo sentito anche una volontaria dell'associazione Emergenza Siria Milano che sta prestando soccorso a queste persone. Sì, in questi giorni in particolare non ci sono posti per i single, cioè c'è posti solo per le famiglie con bambini e quindi tutti gli arrivi di questi giorni qua hanno dormito per strada fondamentalmente. Se guardi qua di fianco vedi che ci sono i sacchi a pelo, purtroppo a volte capitano anche famiglie con i bambini perché arrivano magari troppo tardi per essere presi dal servizio del comune che li porta nei centri di accoglienza, ma l'effettiva emergenza ora a Milano è che tutti i centri sono pieni. L'altro giorno in più ci sono stati due giorni fa degli eritrei qua, ci sono stati dei casi di scabbia, altra emergenza non da sottovalutare. Come avete sentito, 4 casi di sospetta scabbia e da febbraio l'ambulatorio del comune che era proprio all'ingresso della stazione è stato chiuso e per ora è tutto. Grazie Valentina Furlanetto per questo aggiornamento e questo racconto. Noi ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo e parleremo di edilizia scolastica perché ieri a Sanremo hanno chiuso 6 scuole lasciando a casa 1.800 studenti. Qualcuno dirà beati loro, però c'è un problema evidentemente che riguarda l'edilizia scolastica. Ne parleremo anche con Laura Galimberti, che è capo della struttura di missione della Presidenza del Consiglio che si occupa di tutto questo, perché ieri doveva essere la giornata nella quale avremmo dovuto vedere l'anagrafe dell'edilizia scolastica e questa anagrafe non è arrivata. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Crescono i nuovi contratti di lavoro in marzo, le assunzioni superano le cessazioni di 90.000 unità. Oggi vertice europeo sull'immigrazione, Renzi riunisce i ministri prima di partire per Bruxelles. Margine del summit, si incontreranno il premier greco e la cancelliera tedesca Tsipras, cerca un accordo. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, avete chiuso 6 scuole addirittura. Sì, è stato fatto un'ordinanza ovviamente che coinvolge circa 2.000 alunni, ma è un'ordinanza quasi obbligata, proprio in maniera cautelare per capire un attimino lo stato delle scuole, perché purtroppo è un problema che ci trasciniamo da troppi anni e dobbiamo in questa fase qua non possiamo più attendere. Dunque abbiamo fatto questa ordinanza per fare dei controlli presso i plessi scolastici di cinque plessi scolastici e uno infanzia. Tutto questo è avvenuto perché avete, per così dire, anche incrementato i controlli dopo un crollo che c'è stato nei giorni scorsi, no? Sì, esatto, c'è stato un crollo di circa di un metro quadrato presso una scuola di Via Volta, che è un edificio che comunque ha più di 80 anni e a questo punto, voglio dire, non potevamo stare fermi e guardare, abbiamo iniziato a fare dei sopralluoghi anche in tutti i plessi scolastici e in base anche un po' a delle mappature che avevamo in possesso abbiamo iniziato, voglio dire, a guardare in maniera più dettagliata. Perché voi, sindaco, avevate fatto delle mappature delle scuole, no? A partire da novembre, se non sbaglio, proprio per capire come fossero messe. Ma certo, ma lei, cioè, il problema qual è? Il problema è che noi abbiamo degli svincoli del patto di stabilità verticali, si chiamano così, nel periodo autunnale verso ottobre, e quest'anno avevamo già stanziato circa 500.000 euro per, vuol dire, per questo problema. Ma qual è la cosa che ci mette tantissime difficoltà? Che, come lei può immaginare, gli interventi, diciamo quelli più definitivi presso i presidi scolastici, noi possiamo farli durante il periodo estivo, e durante il periodo estivo noi non disponiamo di nessun sblocco di fondi del patto verticale, perché il patto si sblocca intorno al mese di ottobre e entro fine dicembre dobbiamo chiudere i lavori. Perciò io quest'estate, ovviamente adesso faremo tutto quello che c'è da fare per mettere un minimo di sicurezza e per far sì che questi, che gli alunni possano finire il corso scolastico, vuol dire entro giugno, ma ci saranno altri interventi da fare quest'estate assolutamente in maniera definitiva, e se questo ci costringerà a sforare il patto lo faremo, perché a questo punto cioè qua siamo in una situazione veramente, vuol dire, facciamo i sindaci, facciamo tutto quello che c'è da fare, ci mancherebbe, però di fronte a queste cose assolutamente non possiamo più tirarci indietro, perché qua la situazione sta diventando alquanto complessa e allarmante. Dunque, e non è un problema di Sanremo, è un problema di tantissimi comuni presenti in Italia. Grazie dunque al sindaco di Sanremo, e saluto l'architetto Laura Galimberti, che è coordinatrice della struttura di missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio. Buongiorno architetto, benvenuta. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. La prima domanda che le voglio fare è questa: doveva arrivare ieri il documento con l'anagrafe dell'edilizia scolastica, perché non è arrivato? Perché alcune regioni sono ancora indietro con la raccolta dei dati, e quindi si è preferito assolutamente fare un quadro completo, anche per non generare delle false credenze o false aspettative delle persone. Soprattutto queste regioni sono collocate al sud, al centro-sud dell'Italia. E facciamo i nomi, però, architetto, facciamo i nomi di quelle che non sono arrivate in tempo, però. Quelle che ancora dovranno consegnare, è già previsto che lo facciano entro il 30 giugno, sono il Lazio, la Campania, il Molise, la Sicilia, la Basilicata e la Sardegna. Però io vorrei veramente sottolineare come questa incompletezza ancora dei dati non è un segno che queste regioni non stiano lavorando. Noi sappiamo che la Sardegna sta facendo un lavoro molto serio di razionalizzazione del patrimonio edilizio, di revisione, di studio. Quindi semplicemente un completamento questo dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. Le regioni stanno facendo un ottimo lavoro sull'anagrafe tutte quante, queste sono un po' più indietro. E una volta che avremo questa anagrafe sapremo esattamente, avremo una sorta di database nel quale ci saranno tutti gli edifici scolastici d'Italia e conosceremo anche le loro condizioni di massima? Questo senz'altro. Io vorrei dire però che quello che interessa a noi ancora di più che avere la fotografia, ci sono dentro 150 dati nell'anagrafe, sapremo se le scuole hanno la palestra, hanno la piscina, hanno la mensa, quanto sono distanti dalla fermata dell'autobus, se sono costruite in mattoni, in cemento o in legno, ma diciamo quello che a noi interessa ancora di più è che questa anagrafe diventi uno strumento di programmazione e gestione per gli enti locali, per le regioni, per lo Stato. Quindi diciamo le regioni stanno tutte lavorando ancora perché oltre alla fotografia l'anagrafe diventa uno strumento di gestione. Alcune regioni, faccio un esempio bello della Calabria, che ha vincolato per esempio le richieste dei finanziamenti degli enti locali attraverso l'anagrafe, quindi adesso anche il decreto mutui sarà distribuito attraverso l'anagrafe, quindi gli enti locali devono avere l'anagrafe aggiornata per richiedere finanziamenti. Questo permetterà veramente di avere una situazione dei cantieri, dei lavori, dei finanziamenti sui singoli edifici. Ci dà dei tempi, architetto, per avere finalmente questi dati e questa anagrafe? Sì. Entro il 30 giugno queste regioni che mancano saranno allineate, quindi noi speriamo veramente poco tempo dopo di poter avere tutti i dati pubblicabili. Più o meno entro l'estate, immagino, insomma, sperabilmente. Senz'altro. Insisto che diciamo la pubblicazione è solo una parte del lavoro, sì, noi preme certo. Molto il contenuto di queste informazioni. Ultima domanda, l'ha sentito qual è il problema del sindaco di Sanremo? Dice a me sbloccano i fondi tra ottobre e dicembre, quando evidentemente i lavori nella scuola non li posso fare. Però devo dire che il sindaco di Sanremo in qualche modo ha chiuso la scuola veramente per pochi giorni, adesso parliamo di 2 o 3 giorni per fare una diagnostica molto seria di tutti gli elementi non strutturali dei solai delle sue scuole. Noi crediamo che questo sia il lavoro più importante, difatti nel DDL della buona scuola sono previsti 40 milioni per questo tipo di diagnostiche, proprio perché pensiamo che la sicurezza sia il tema più importante. Sappiamo che nelle anagrafe saranno registrato se le scuole hanno la certificazione o non hanno le certificazioni, ma la certificazione non equivale alla sicurezza, proprio perché riteniamo che il tema più importante sia questo della sicurezza e questa criticità degli elementi non strutturali, degli intonaci che si distaccano nelle scuole, molto frequente purtroppo per la tipologia costruttiva, per l'età degli edifici, per mille motivi proprio legati alla tipologia scolastica. E quindi intendiamo anche come governo sostenere questa diagnostica, poi certamente progressivamente, che tutti gli edifici siano messi a norma anche con i certificati. Quindi tra l'altro il sindaco di Sanremo ha fatto un'operazione molto giusta in anticipo rispetto anche a quello che vorrà fare il governo. La ringrazio, grazie all'architetto Laura Galimberti, coordinatrice della struttura di missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio. Un ascoltatore chiede via SMS di che partito è il sindaco di Sanremo. Devo essere franco, lo sapete, non ne ho la più pallida idea. Quando mi informo su queste notizie, su questi fatti di cronaca, penso solamente al fatto che è il sindaco ed è la prima persona a rispondere di questi fatti. Non ho pensato di che partito sia. Se volete lo verifico e ve lo dico dopo il traffico.